CFD Production presenta. Un prodotto ideato e condotto da Frego, Diego e Dennis. Musica, informazione, curiosità e molto di più. E60, l'informazione divertita. Nel 2010 una squadra di giovani impavidi e sprezzanti del pericolo si accinse a combattere una guerra sanguinosa contro le truppe della noia della Team quotidiana, salvando milioni di vite in bilico tra guardare la TV e giocare alla PS3. Se avete bisogno di loro, urlate forte il loro nome. Loro sono DFD Team. Buongiorno a tutti e benvenuti a 360, l'informazione divertita condotta dal DFD Team. Come abbiamo detto appunto prima, ringraziamo gli A-Team che ci hanno accompagnato per ampliare un attimo quella che è la nostra scelta musicale appunto dei 360 gradi. Ma cominciamo subito a presentare la formazione di DFD Time e abbiamo qui davanti a me il signor Dennis. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à la nouvelle transmission, la nouvelle programme. Prego, stoppalo subito, stoppalo subito, basta. Vive la France, vive la France, italiani, italiani. Io ti devo interrompere perché devo dare un attimo la linea a quello che ti sta interrompendo. Allora, linea vediamo... al mitico, all'angolo destro abbiamo lo sfidante direttamente da Ischia, provincia di Napoli, Diego. Oui, buonasera, benvenuti a tutto quanto, come state? Che stai dicendo? Cosa abbiamo da dire oggi questa sera? Benvenuti naturalmente a tutti i nostri amici ascoltatori, ma noi dobbiamo naturalmente presentare anche il nostro regista, il fautore, il mitico e soprattutto Frego! Yes, good evening all together tutti quanti. E allora cominciamo subito senza dare tanto spazio ai preamboli e penso che tu, Dennis, possa dare anche le coordinate multimediali. Andiamo senza indugio alle coordinate. Radio San Donà 102 200, telefono 0421 560993, il fax 0421 560994. Ci potete ascoltare in streaming su www.radiosandona.it e naturalmente per chi ci vuole mandare le email può contattarci in dfd360@yahoo.it, Facebook dfd360 o SMS 348-41-62771. A public service announcement followed me home the other day. I hated, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked to bunch of lessons. We're sick of being checked around. We all fall down. Have you ever seen the televised and brightest subcommittee prize investigation dance? Those ancient man's glances, I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a dreadful noise into the Times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, we're dug in deep. The price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. We stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the Times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Abbiamo ascoltato gli R.E.M. con Bad Day e bentornati qui su Radio San Donà con il nostro DFD e con 360 l'informazione divertita. Tra l'altro abbiamo sentito anche all'interno della canzone Ash Ash We All Fall Down, che devo dirla, è una chicca troppo bella, che è l'ultima parte del Giro Giro Tondo detto in inglese. Dai, potevo dirlo, dai. Questa non poteva risparmiarsela. Dobbiamo fargli un complimento. Siamo qui soprattutto per onorare, naturalmente sentite la base di sottofondo, la sigla del mitico A-Team, giusto? Il vecchio DFD Team. Naturalmente tutti hanno visto almeno un episodio dei 98 episodi degli A-Team. Prego, non hai visto perché gli A-Team? Io non avrei averli visti, scusa. No, lui aveva anche il furgone dell'A-Team, mi ricordo, l'ho visto. Infatti. E poi l'ha distrutto perché poi l'hanno preso quelli dell'esercito, insomma, un po' di cose. Esatto. Ah sì, adesso sotto la missione identità. Qui. Ha dovuto cambiare identità e cose, poi lo chiamavano, lui non rispondeva, avevano messo anche la sua sagoma su un faro, esatto, enorme da puntare in cielo, tipo Batman, però lui non rispondeva. Lui era sberla. Sapevo che la diceva. Da sberla. Ma qual era il tuo personaggio preferito? No, il mio personaggio preferito naturalmente era Hannibal Smith. John Hannibal Smith, quello di Adoro i piani ben riusciti, vi ricordate, col sigaro in bocca? Il sigaro mi manca. Però gli ha fatto un po' male quel sigaro all'attore, perché purtroppo è scomparso per un cancro ai polmoni. Sì, è nel 1994, a 66 anni. Celebre soprattutto per aver citato In colazione da Tiffany. Era la parte di una specie di scrittore In colazione da Tiffany. Non avete visto Colazione da Tiffany? No, io colazione la faccio alla mattina. Non fate mai colazione da Tiffany. Madonna, fanno di quelle brioche. Cioè, veramente 24 carati. No, io la faccio l'Alpiron. Cos'è il Piron? L'osteria. Anche pubblicità occulta. Io faccio colazione al Piron. No, non si può dire il nome delle cose. Il Piron, cioè. Ah, non esiste. Cioè, c'era Diego che mi stava mimando, ho letto il labiale, non esiste, allora sei giustificato, Diego, sei giustificato. Insieme naturalmente al personaggio di Hannibal Smith c'era naturalmente il mitico Templeton Peck, detto Sberla. Detto prego. Detto Sberla. La Sberla era vera. No, allora detto. Non era... Aia. Non erano effetti. Non state sentendo. Com'è che si chiama, sono... Sberla? No, basta. Basta, non voglio più vedere, abbiamo già le facce viola. Ecco. Poi c'era il mitico pessimo elemento, il P.E. Baracus, ve lo ricordate? Enorme, quello. Ma c'è anche wrestling. Esatto, bravissimo. In certe puntate c'era anche Hulk Hogan nella bravissimo, proprio, era proprio il periodo in cui era in auge al Hogan e P.E. Baracus, naturalmente, che era Mr. T. Nonché Nemic il Mister. Michael Mister, Hulk Hogan, la classica coppia, no? La classica coppia, esatto. Vero nome, naturalmente, Mr. T, che non so quanto Diego. Vero sia il nome di Mr. T, ma non importa, chi se ne frega. E ultimo, ma non per importanza, naturalmente, il cane pazzo Murdock, lo ricordate? Pilota di elicotteri folle, era odiato da Baracus. Sì, ti accarezzo tutti i giorni, voi che non ti ricordi. Eccomi qua, cioè, sono io, il cane pazzo. Non sono pazzo, non sono neanche pezzo di pizza pazzo, non pozzo che puzza. Va Radio Sandonà 102-200 la frequenza. Questi erano gli Amorphis con Sky is Mine. Ma adesso diamo direttamente la linea, visto che parlavamo di Amorphis, a Diego. Io. Diego, vai con le ultime notizie. Perché? Ah, sì, sì. Giappone, arriva la Ecobara, anche incenerita, non inquina. Vai. Morire con un pensiero al destino dell'ambiente. Se si ha un'anima particolarmente ecologica, dal Giappone arriva l'invenzione perfetta. Ed ora la rubrica Ecologia. Benvenuti nella rubrica Ecologia. Esiste questa rubrica Ecologia, parliamo, nostro caro amico Dennis. Parliamo innanzitutto, è un discorso abbastanza serio, perché il problema dell'ambiente è legato a tutti noi, è un problema che coinvolge tutti noi, è un problema anche della spazzatura. Oggi abbiamo come ospite il nostro caro amico, che è un operatore ecologico, è un agente di pulizia e si occupa appunto della raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata. Ecco, Diego, benvenuto a te. Ma Diego, benvenuto. E diciamo innanzitutto, tu fai parte di un certo tipo, una certa categoria di rifiuti, vero? Sì, io guarda, io sarei l'ingombrante. Tu sei l'ingombrante. Prego, lo classificherei come rifiuto non nocivo, non secco, beh, o non umido. Un po' secco, un po' tutto, umido, a seconda tutto delle eventualità. Invece di sì, te non si butta via niente. Come non si butta via? Tipo il maiale, praticamente, come? No? Ma sei un maiale. Ma non è. Ma è il maiale che non si può. E io insomma. Ma come? È maiale, non dirlo così, è un suino, dai. Ah, è più carino da dire. Qual è il tuo suono allora, Dennis? Il mio suono, sì, perché sono un suono. Verso. Il suo io, il mio verso. No, fammi un urlo. Scream for me, dai. Va bene così, va bene. Questo è il mio urlo. Scream for me. Questo è il mio urlo. Il tuo suono. È il mio suono, il mio urlo. Song. Gonna be the one who gets it right. You better move when you're swinging round the room. Looks like magic's only us tonight. Like the old empires, when all you do is change clothes and call them versatile. You've got so many colors, make a blind man so confused. Then why can't I keep up when you're the only thing that I lose? So why just pretend that I know which way to bend? I'm gonna tell the whole world that you're mine. Just please understand when I see you clap your hands. If you stick around, I'm sure that I'll be fine. Don't feel like dancing, dancing. Even if I fall off the mountain, I do. Come on, feel like dancing, dancing. Watch me get down on another move. Don't feel like dancing, dancing. Brothers and home, what you want to do? my chest power and just lay me down as you float away into the shade of the light. Bentornati a Radio San Donà. Naturalmente gli incidenti di percorso accadono anche nei migliori ambienti, come per esempio è successo in Gran Bretagna. Ruba il bancomat e telefona per chiedere il PIN. La versione del ladro gentiluomo, un criminale di Grimsby in Gran Bretagna ha telefonato alla persona a cui aveva rubato il portafoglio e il bancomat chiedendo se per cortesia poteva comunicargli anche il codice. Chiedere PIN. Un diritto a rispondere, cortesia. Esatto, chiedere l'esito, rispondere. Magari lui con cortesia gliel'ha dato. Sì, esatto. Allora io vado da Diego, no? E non so, per esempio, gli rubo la macchina, però prima di rubargli la macchina, siccome non riesco ad accedervi, allora gli dico: Diego, scusi, mi dai le chiavi che Ma devo certo, rubarti la... Per te questo è altro. Per me questo è altro, sì. Naturalmente, ma naturalmente abbiamo anche quest'oggi abbiamo Diego che ci racconta un'altra bellissima cosa. Cosa ci racconti, una bellissima cosa, Diego? Ma non no. Ci racconta niente, non raccontarci niente, non raccontarci niente, come so, hanno sfaticato quest'uomo. Cioè non fa niente, cioè questo qui veramente non fa c'è niente, c'è la coppola c'è la coppola stasera, non fa niente. Io avrei qualcosa da raccontarvi, però non c'entra niente col fatto. No, ma non importa, questa era una cosa che leggevo qui tra i vari giornali internazionali, perché no, perché mi è giunta una notizia comunque che sesso focoso con la moglie finisce in ospedale col pene rotto. E ti pareva che non trovava la notizia così, Diego? No, mi è arrivata, mi è arrivata. È arrivata così. Mi è arrivata la notizia. È arrivata per volontà divina. Qualche minuto, sempre qui su Radio San Donà 102-200, due minuti di pausa. Erano Mamma Gamma di Alan Person Project qui a DFD 360 Radio Sandonà 102 la frequenza. Ma è rotto? No, avevi letto giustamente che era meglio che la rileggi perché questa è una cosa veramente assurda. Vai. Sesso focoso con la moglie finisce in ospedale con il pene rotto. Crack. Io non ci penso, non oso pensarci. Ma non è tanto la rottura. È andare all'ospedale e presentarti come lo spieghi? Ai medici. Allora facciamo la prova. Vai lì, gli dici: oh, my rotter. No. Cioè, allora arriva tizio e fa: buongiorno dottore, ho un problema. Sì, mi dica, prego, mi dica. E niente, mi sono rotto. Scusi, che mi dice lei? Io ho un problema. Mentre stavo facendo delle atti focosi con la mia moglie. Ah, stava facendo sesso. Sì, stavo facendo quella cosa. Io voglio sapere come posso fare per sistemare questa rottura. Ma sinceramente lei potrebbe avere anche la possibilità che ci siano delle membrane all'interno del penis che potrebbero essere anche probabilmente rotte. E quindi che possiamo dire? Adesso possiamo proprio ricoverarla, fare delle radiografie e potremmo anche cercare di mettere a posto la situazione, anche se è difficile. Cielo grigio su, foglie gialle giù, sempre qui su Radio Sannonà 102.200 la frequenza. Questi erano i Dick Dick con Sognando la California. Che c'è stato? Cioè, mi sono fatto dico un viaggio. No, bello, sono stato appena a San Francisco, ho sognato pure io la California, mi sono fatto di quelle gambe. Ma, ragazzi, ma te che ti sei fumato? Ma io mi sono fumato tante cose buone, capisci? Perché noi della confraternita dei figli dell'amore eterno, in siamo là. Dormiamo nelle tende, stiamo tutti nudi. Oh, mi stai facendo sognare. Io diciamo che quando sto fumando dentro la caverna, vedo nell'esterno della caverna l'arcobaleno con tutti bello, i colori dell'arcobaleno. Un sacco figo, un sacco bello. Con tutti i fiori poi che cadono dal cielo e tutta quell'armonia, quel suono di viaggio intergalattico che tra le galassie della nuova atmosfera. Bello, bello, lo faccio anch'io, mi piace, solo sogno tutte le volte, ogni volta che mi faccio una canna di quelle belle poste. Sto viaggiando a ascoltarti. Sì. Io invece mi sono sognato, anzi, ho visto proprio un universo, capito? C'è un universo intero tutto quanto, proprio, tutto. Ho visto tutte le galassie. Le stelle, le nebulose. E mi sono fumato il pelo d'ascella. Bella fratello. Bella frate. Il pelo d'ascella si è fumato. Come hai fatto a fumare il pelo d'ascella? Basta che non te lavi per una settimana e poi te fumi. Ma che schifo. Ma cosa? Ma come fai, scusa? Cioè tu non ti lavi. A parte che Diego, sappiamo tutti, Diego si lava quando piove. Esatto. Solo esclusivamente quando ha piovuto parecchio, ha piovuto parecchio, quindi si è lavato, infatti puzza meno delle altre volte. Fortunato solo l'universo. Fortunatamente anche d'estate quando va a fare il bagno al mare. Esatto, anche quello, infatti il mare è inquinato per questo motivo. Esattamente. Se invece pioveva poco, vedevo i topi ridere. Sì, perché praticamente tu annusavi i vapori provenienti dalle tue ascelle e vedevi i topi ridere. Ma cioè, come fanno negli Stati Uniti, ragazzi? Negli Stati Uniti hanno indetto questo festival delle ascelle. Notizia dell'ultima ora, parliamo di cronaca. Molto importante. Siamo alla cronaca. È una città del Nevada, negli Stati Uniti, ha finalmente deciso di omaggiare le ascelle dedicando loro un festival. Si tratta infatti del festival delle ascelle, scusate, ma non ci credo nemmeno io, che si svolge... Scusa, non voglio interromperti, abbassa le ascelle per cortesia. Sì, infatti, appunto, si svolge appunto a Battle Mountain. Meglio ascoltarci Rondò Veneziano, va? We'll be right back. E ben ritrovati a DFD 360, l'informazione divertita. Naturalmente, oh no, ragazzi, scusate, ma non abbiamo ancora salutato la mitica Castellina Pasi. Castellina Pasi, la nostra base preferita. Ciao Castellina. Ciao Castellina. Ciao Castellina. Bella Castellina, bella. La Castellina direttamente. Salutami tua sorella. Direttamente dall'Emilia Romagna ci ha portato qui le lasagne questa sera, no? Esatto. Ci ha portato le lasagne, tortellini, caplit. E oltretutto siamo contenti perché ci ha fatto la spagnola, no? Soprattutto la spagnola è il titolo della canzone. È il titolo della canzone, è la nostra base, naturalmente. Ciao Castellina, ciao e grazie di essere al mondo, grazie. Ma stavamo parlando di americani prima, giusto? Diego, sì, aveva una cosa da riferirci. Ma no, che mio fratello ha notato in un viaggio in America che pensano che Venezia sia in Francia. Cosa, scusa, che Venezia sia? Where from? From Venice. Oh, ma oui, français. No, c'est incroyable, direbbero i francesi. Cioè, incredibile. Cioè, è incredibile. Questi americani sono abbastanza incredibili. Vabbè, sa che sono un po' bizzarri, insomma. Per esempio, gli americani, e ce l'hanno anche vicino, credono che il Canada si trovi negli USA. Infatti, dicono, il Canada, uno stato americano, è evidente, così la pensa ben un terzo degli statunitensi, convinti, stando a quanto dicono i risultati di un sondaggio condotto dalla società Ipsos Rail, vabbè, quella che il Canada faccia parte degli USA alla pari del Michigan o della Ipsos Rail, Ride, è importante sapere questo. No, non è un insetticida, insomma, è come il DDT. Pensano che sia un altro stato degli Stati Uniti, cioè è una cosa abbastanza incredibile. Si sa che gli americani sono sempre un po' strani. Beh, mi ricordo, molto, mi hanno anche detto che i canadesi dicono di essere i fautori della pizza, oltretutto. No, questo no, qui abbiamo. Vorrei sapere chi ti ha detto questa notizia. Assolutamente protesto, perché qui teniamo un napoletano doc. E qui ci dice chi ha inventato la pizza. Chi ha inventato la pizza? A Napoli, stato a Napoli per la resina Elisabetta. No, che cazzo? Margherita, Margherita. Ma già sbagliato, che lo può capitare. Aiuto. The higher they climb, the harder they fall. Lord Horbury si fermò davanti alla credenza e si servì distrattamente del rognone. Stephen Horbury aveva 27 anni, la testa lunga e stretta e il mento a punta. Aveva proprio l'aspetto di ciò che era in realtà. Un uomo sportivo, abituato alla vita all'aria aperta, senza niente di particolare in fatto di cervello. Era buono di cuore, piuttosto pedante, di una lealtà a tutta prova e invincibilmente ostinato. Portò a tavola il piatto colmo e cominciò a mangiare. È ora di finirla. Ma scusa, era Agatha Christie, i gialli. Sì, le croste te le faccio venire io, le croste. Ma non croste, Christie. Ma non croste, Christie. Le croste ai capelli, c'hai. Le croste nei capelli, c'hai. È ora di finirla. Che tu prendi le tue iniziative e cominci a leggere. Ma mi piace leggere, scusa. Ma che non mette tempo spazio? Il rognone. Cosa parlavi, il rognone? Ma io stavo leggendo, è una lettura. Cioè, voi non lo so, non leggete mai. Stiamo facendo una puntata radio. Crosti clown. Sei un rognone. Sì, tu le croste ce l'hai nel cervello. E ti mangi anche le croste di polenta, oltretutto. Oh, le croste di polenta. Le croste di polenta come ti piacciono? E quelle tocciati con la salsa barbecue. No, quelle cose lì. Buone. La salsetta te la fai te a casa stasera. Le croste di polenta non sono altro che? Che? Le croste che vengono fuori dai capelli di Diego. Esatto, ma soprattutto dal cervello. Insieme alle ragnatele. Che non si possono dire. Esatto, insieme alle ragnatele. Perché sai quando c'è, quando le cose cadono in disuso. Ci sono ragnatele, cose eccetera eccetera, quando scuoti i capelli nevica. Esatto, quando scuoti i capelli nevica e quindi chiudono gli aeroporti, succede tutto, quando Diego sventola la sua folta chioma, una volta la folta chioma fino a 10 anni fa c'aveva la folta chioma. Sì, esatto, e adesso che tengo la folta, che è la folta piazza adesso. C'è uno spiazzo pieno di gente, infatti a Sandona è nata una famosa piazza, Piazza Santo Diego. Piazza Santo Diego, esatto. Caponnetto. Santo Diego Caporetto, Santo Diego Caporetto, la disfatta, la disfatta, l'uomo della disfatta è Santo Diego Caporetto. Pensate, basta, ma no, è un certo. Basta, basta. No, ma lasciami leggere, scusa, ma aia, è Agatha Christie. Ti ricordo che sei sberla tu. Sberla. That I'm your girl, as time after time I have needed a reason just to get inside your world. So many times have I asked you to ask me how it feels to love. And when this love seems the only conclusion that I'm guilty of, oh baby, then you put your loving arms around me, and it feels like shelter. And you put your loving arms around me, your arms are burning. Put your loving arms around me, and you whisper to me when you put your loving arms around me, and inside this love I'm of your time, like I'm stealing. And when I dream of the fear that you're leaving, and I reach out to baby, then you put your loving arms around me, and it feels like shelter. And you put your loving arms around me, and inside your arms I'm burning. Put your loving arms around me, and inside this love I'm yearning, yearning. bella Billie Ray Martin con Your Loving Arms. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata. È già finita. Qui dal gruppo del DF di Tan, Radio Sandona 102-200 la frequenza. Adesso se vuoi dare i nostri ultimi contatti ai nostri amici a casa. Cioè, il telefono è 0421560993. E 4 finale per il fax, no, ce la faccio a dirlo tutto. Se volete ascoltarci in streaming, www.radiosandona.it. Non ce la faccio, non ce la faccio. Allora, mail dfd360@yahoo.it, Facebook dfd360, SMS 3 4 8 4 1 6 2 6 2 7 7 double 7 1. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.